Invece sentite in banda laterale, sono passato per l'Inter. Ma proprio ti sei sentito qua con questo eco, con l'eco. E allora è qualche cosa sottofondo che c'è in casa tua, il televisore forse. Il televisore sicuramente. E più anche il televisore del baracca. Perché il televisore è più lontano. E prende di più il televisore, capito? Più forte il televisore del baracca. Del baracca. Allora, è basso, solo che è lontano e dice sensibile al microfono e è logico che entra più il televisore della mia voce. Questo qua che è entrato, cos'è? Il TAR. E via. Va bene. E beh, amare, amare. Come? Amare, andando. Né amare e né a me. E non devo guiando. Oh, via. A piccata. Adesso io mi devo apprezzare e andare. Io con questo non esco, questo adesso ce l'ho. Sì, c'ho tutto in campagna, io non... Poi io temo a prendere la macchina qua. Si piglia una macchina, poi non c'è proprio stigio, ed è un macello. E allora non la usi mai questa macchina, se fa un giro per il parcheggio non la usi mai, la lasci sempre ferma. Perché non posso camminare, se no l'avrei mollata dove capita e me ne sarei venuta a piedi. Molte volte ho fatto così, perché parcheggio qua non viene mai. Perché a Dolorino? Come? A Dolorino le gambe? Come cammino appena appena mi viene quel dolore là. Non posso stare. E allora al ginocchio adesso. Adesso al ginocchio. Sto prendendo forse al ginocchio e siamo più di una settimana con questo dolore. Adesso forse alleviato, gli ho messo voltare in due. Due tubiti già. Che vuole? Già siamo vedi buchi, via. Cura a noi. La propaganda è completa. Quello che stavo dicendo, che sto uscendo con la fascia elastica nel ginocchio. Hai ragione, la propagazione, cioè, ma forse stavo uscendo basso io. Sto con la fascia del ginocchio, con la fascia elastica, che se no se la mollo, se tolgo la fascia, pare che sia la leva del cappio sboccolata, la cucci, manda cucci, come se non ci avessi i legamenti. Ho capito. Adesso più forte sto arrivando. Sì, adesso. Perché poco fa c'era la propagazione che stava rompendo le scatole. Catano, non ci sta più entrando nessuno la sera, boh, mi sto annoiando Catano. Guarda, secondo me tanto mi vendo tutta, che intanto non entra più nessuno, no? Boh. Anche io ho provato, non c'è mai nessuno. Praticamente ti se ne vanno in giro adesso, e quello è il problema. Io la dobbiamo venire sabato l'archero, ieri la porto, se io me ne ando in giro, non è che sto qui in casa. E tu lo puoi fare, io purtroppo cosa faccio? Poi ieri c'avevo gente pure, cosa c'hai anche via? Ma ieri se tu puoi stare in casa sempre facendo le stesse cose. Ogni tanto vale vado in giro. Al mare non ci sto andando nulla, perché per il piede adesso mi è guarito, bene. Solo che al centro diabetico mi sa che cambio diabetologo, perché sono andato, ho telefonato 100 volte e non mi rispondeva nessuno. E allora sono andato in persona stamattina e mi ha detto, ma lei come ha fatto a salire, che non abbiamo proibito di salire tutti quanti, come l'hanno fermato? E non ho detto, non c'era nessuno, più io a me non mi ha fermato nessuno, sono salito su per chiedere, perché come me non rispondete dopo dell'appuntamento, ma non se ne prende più di appuntamento, deve mandare l'email con tutte le analisi e poi il dottore vedrà se chiamarlo o no. Scusa, ma se io ho la glicemia che è alta e non riesco a regolarla, cosa faccio? Tramite i vetri lo chiedo. Ma cosa vuoi ti dica? È tutto un casino, con questo Covid è un macello. Poi l'avevo detto, io sono vaccinato, l'avevo detto. Sì, ma devi avere il coso, meglio verde che ti fanno perché se no non ti vale nulla che se l'hai fatto il vaccino, non puoi entrare nei bar, nei ristoranti, né nulla. Stiamo facendo questa legge strana, ancora non l'hanno passata, ma fra poco devi avere quel passo di se no non ci puoi andare. Ecco, vai in farmacia e te la fai scaricare. Come ho fatto io ce l'ho, mia moglie ce l'ha lo stesso, la Green Pass. Io l'ho chiesto alla mia farmacista, ma gli è arrivato lei a casa, no, non mi è arrivato nulla, e allora non si può fare nulla. Come non si può fare nulla? Cazzo, ma pigliano di barguso, concei, sei andata tu in farmacia a fatica? Sì, e me l'hanno fatto. Ecco, vai con la carta sanitaria in farmacia e te lo scaricano, in via Rosello l'ha fatto mia moglie. Se quella farmacia che hai tu non invasi, non disoccupi, però l'ha fatto in via Rosello, da assicurare. Ma chi è? Gianni. Non riesce a farsi la carta verde e chi un cazzo di urgente diabetico usa una massa di vassaggi. Se mi hai detto così che non le farmacie tutte, avevo sentito anche io, non facevo le farmacie, poi invece la farmacista mi ha detto che non le stanno facendo, non me l'hanno fatta mai. Adesso vado via Rosello, la faccio via Rosello, quella farmacia che fa, non l'ha fatto Concetta, lì dove c'è quella farmacia che fa, via Rosello. Sì, da Sicurani, in via Rosello, portati la carta sanitaria che ti chiede quello e ti esce tutto, ti dà anche il foglio del secondo vaccino, però deve portare anche il foglio del secondo vaccino, prima il secondo. Forse passano lo scanner in quell'affare dove c'è il codice, il QR, ed esce da lì, cazzo, e te lo fanno lì, te lo stampano e tutto. Capitina, ma buffonelli sembra. Ed era gratis. Gratis, infatti. Sentita la mia moglie cosa ha detto, che era gratis. Sì. Allora ci fa. Mi ha fatto male che me l'ha detto. Perché sono invitato a un battesimo e mi ha detto che ci vuole questo Green Pass, perché se no non fanno entrare nel ristorante. No, non nei ristoranti, non puoi andare ai matrimoni, da nessuna parte dove c'è assembramento, se non hai quello non ti vasi in entrare. Hai capito cos'è il discorso già? Fattino, vai in via Rosello e te lo fai fare. Ti porti il foglio del vaccino e la carta sanitaria e te lo stampa. Cazzo l'ha fatta a me, mi ragiono il borsello io. Sì, anche io ce l'ho nel borsello, quello del vaccino ce l'ho nel borsello. Aspetta, tutto male, che vale, ti faccio vedere quello, ma Federica, mia nipote, mi ha detto che non vale, che bisogna avere proprio Green Pass. E tu vai e ti rubai il Green Pass. E così avanti andano a fanculo tutti. Perché se no intanto non puoi andare da nessuna parte. Se devi andare a vederti un concerto non ti fanno entrare, se devi andare a un matrimonio neanche, in ristorante, in discoteca, da nessuna parte ti fanno entrare dove c'è assembramento. Capito? Io me l'ho fatto, se devo andare a che luogo non mi vado in entrare. Vedrai che me lo chiedono adesso quando vado al centro diabetico dove vado io pure. Ma io vi allaggio e ributto. Sì, tra poco, non penso che sia conosciuta la legge, però la stanno proponendo, questa legge che deve avere, non so se c'è uscita, se è uscita oggi, era in proposta. Ma siccome io non lo sapevo e me l'ho fatto, poi mia moglie mi ha detto, mi dice che lo fanno in farmacia, vai e fallo, una a me e una a te. E ce l'ha fatto lì e l'ha fatto a me lì. Io non ci sono andato, è andata mia moglie e gliel'hanno stampato il mio. Ma io vabbè ragazzi, perché stavo aspettando che me lo mandassero a me, perché dice che lo mandano via email, roba del genere. Però non mi è arrivato nulla a me, quindi adesso vado e lo faccio fare io. Ragioni tutto. Allora vuol dire non te ne ha voluto fare quella bastarda della farmacia di lì, perché io sapevo che lo facevano in tutte le farmacie. Tu casa venendo ai noghi, ma stessi, entra in un po' di farmacie dove te lo fanno prima, te lo fai fare, se no vieni qua e te lo fanno. E molto ci vuole, non stare lì a tirarla alla lunga, se no se devi andare a questo battesimo non puoi entrare. Oh, perché fanno ricevimento, fanno ricevimento al ristorante, capito? E quindi se non puoi entrare, se non c'è green pass. Infatti, perché lo sai cosa succede? Che gli chiudono il locale al proprietario se ti fa entrare senza green pass, capito? E pure la multa ribone. Quindi chi non richiama e macuno. Ti pare che si possa esarrare un locale ma fa entrare gente che non va a green pass. Perché i contagi stanno attorno aumentando ed è un casino. Se la gente non si convince a vaccinarsi, non ne capiamo bidi e non ne siamo da chissà di grazia già. C'è un medico ignorante che non vuole fare il vaccino, capito? C'è un medico ignorante che il vaccino non ne vuole fare. Molti dicono che io ho sentito un virologo che stava dicendo che praticamente noi gli anticorpi ce l'abbiamo già, non c'è bisogno di iniettarci gli anticorpi, ce l'abbiamo già e quando sono tipo febbri queste qua e questi anticorpi riescono a reagire. E chi si sta di liquidare gli esomorfi allora? I virologi lasciano il tempo che trovano, perché ognuno dice una cosa diversa. Invece il vaccino lì ti protegge, perché anche tu puoi essere, adesso tu sei vaccinato, no? E io lo stesso. Però possiamo essere infettati ugualmente, solo che invece di finire in sala di rianimazione ce lo prendiamo più leggero. La differenza sta tutta lì, chi non muori. Eh sì, lo so, è così. Certo, è così. Ma tu, per dire, la notte era il vero, se vedevi la gente che c'era, senza mascherina tutti quanti, gente, ui, sì, ma te, ma no, proprio mi sono allargato, mi sono messo la mascherina, ho detto, io, che no, che vedo troppa gente, qua, qui ci sono quei turisti continentali che la portano da fuori. Asco, io me la porto sempre la mascherina, l'altro giorno sono andato al bar qui giù, che quello lì sta chiudendo, no, per aprirlo qua vicino. Proprio un altro bar nuovo, no? E praticano quello che c'è vicino alle suore. E siccome c'era freddo, allora sono entrato dentro a prendermi il caffè, però io mi ho alzato la mascherina, capito? Io si vengo i veggenti, mi pongo la mascherina, non mi fido. Questo virus è un bel aggressivo. E io, questa è ancora peggio dell'altra. Questa qui. Questa variante qua, il virus è ancora più aggressivo dell'altra. E allora adesso se la sta pigliando pure con quelli giovani, mi. Cazzo. Adesso se non si vaccinano gli insegnanti, i ragazzi che vanno a scuola rischiano un bel cazzo di essere contagiati e dopo, quando sono contagiati loro, contagiano pure a noi. E chi sul veo? Ancora non l'hanno compreso. C'è molta gente che è convinta che è tutto un business, che un cerchio che non riusciamo più, finisce uno di già l'altro, tutto per far guadagnare le case farmaceutiche, che cosa. Non si sa nemmeno che pesce prendere, la verità. E non se ne capisce più nulla, l'unica cosa è pigliarsi l'usiguru. Cazzo. Io già me la giocato tutti e due i vaccini, ma ho giocato un rugo in pace e posso andare in ogni rugo. Logicamente con le dovute cautele, se vedo che c'è troppo assembramento metto la mascherina. Io già esco senza mascherina, però se vedo che c'è gente me la tiro su. E io faccio lo stesso, se c'è gente me la... Non vorrei che dura questo che passa fuori per farle un altro, sicuramente si farà un altro vaccino. E non lo so, ma... Speriamo che ne usciamo vincitori, che ci sono 90.000 persone che non sono vaccinate qua in Sardegna, ma te lo puoi immaginare? E quelli stanno vaccinando a rotta di collo. Quasi qua tutti gli abitanti di Sassari. Cazzo, boh, io non ne so. 90.000 sono le persone che non sono vaccinate. Ma dimmi tu. Vabbè, è gente ignorante. mesi, 10 euro il mio corpo non facendo iniettare niente. C'è muoio pazienza, però non faccio iniettare niente nel mio corpo. E io ya, ci abbiamo provato un po' con rifiutare, Rusani, io la è. Come ti raggio provato io? Da voi lo vedi se timini e ce lo fate nel vaccino, ma non di finire in rianimazione, no, poverini. Io sto a provare quello che ho provato io, da voi lo sanno chi ora è. Lo so, ma dice che molti dicono che praticamente muore la gente di cosa perché che coronavirus, invece magari muoiono di altre malattie. E questa polizia, il popolo, la popolazione dicono che siamo il mondo di coronavirus. C'è gente che dice così, pure. Quella verità che la dice, boh, è causata. Ma cosa vuoi che ti dica? Ognuno dice chi sui ribari di viaggio, la gente non comprende un cazzo e dice delle cazzate enormi. Ne ho sentito di tutti i colori già. Carità. Non so, però non si sa qual è la verità, capito? C'è chi dice che è partito tutto dalla Cina, c'è chi dice che... ogni tanto non dico nulla. E quello che è partito dalla Cina, sì, perché ce l'hanno fatto scappare dal laboratorio il virus, se no non avrebbe fatto tutto questo danno. Quello è un virus fatto in laboratorio e gli è scappato purtroppo. Non penso l'abbiano fatto apposta, se no sarebbero dei criminali. Dove ha cribato tutto il mondo? Io nel primo momento ho preso a farlo al no, cosa? Però purtroppo è scappato questo virus e fa danni. Perché più aumentano i contagi, dopo muta, cazzo, e c'è pericolo che il vaccino non agisca se muta ancora. Sì, perché poi bisogna parlare con un'altra variante, bisogna trovare un altro vaccino. E così, comunque, io la trovato. Adesso mi manca solo di fare il Green Pass. Se me lo fa con la farmacia e mi dice che lo fa, ci vado a piedi. Ci metto la macchina in viaggiotto e poi me lo faccio a piedi, il conto. E vado a farla. Magari in via Sorso prova o vicino a casa se trovi il parcheggio di Rabboni, in chi vi andi in presa a piedi a fatica, assai più. Senza stare lì a metterla in via Giotto, la metti lì in via Sorso, la metti, se non c'è posto lì vicino all'Utico e ti fai solo il ponte, vai a via Rosella e ti vai a stampare, assai più. E ce ne sono, per arrivare qui, ce ne sono altre due di farmacie. C'è quella di Porcu, in via Giovanni Pascoli, e l'altra più angolo via Grazia Deledda. Se puoi risparmiare, ti conviene entrare lì, chiedi, se te lo fanno di rubati, e se no andi direttamente in via Rosello. A noi ci ha fatto tutti i servizi questa farmacia. Tutto quello che c'era da fare ce l'hanno fatto loro, perché andare senza appuntamento non me l'hanno detto loro. Vada senza appuntamento, a chi l'ho prenotato, cazzo, però non mi chiamavano. Pure la prenotazione mi viene fatto qui a farmacia, però non mi chiamavano mai. Mi sono rotto le balle e mi hanno detto, guardi, vada senza appuntamento se non l'hanno chiamato, e stanno vaccinando ugualmente, che glielo fanno il vaccino. Sono andato io e mia moglie e si danno in bar. Senza appuntamento. E va a Roma di vita, ho portato la mano io, mio figlio. Stava la mattina, non si faccia mai entrare la macchina, eccetera, eccetera. E vabbè, cazzo, è burro la giù la cadavura. Invece che andare giù fatto il secondo vaccino, sono andato, guarda, io sono invalido, mi devo vaccinare. A vedere la settimana è fatta entrare. No, ci sono, le radio, lo dico, guarda che sta entrando un tipo bianco che per farla uscire fuori, lo sentito alla radio, perché è vicino a uno di quei portieri, quelli che fanno portierato, là, che non c'hanno manco pistola, non sono guardi giurati. Ci avevano la radio. Quelle 888 sono in LPD trasmettendo sul canale 1. L'avevo buttato la portata, se non mi avevano fatto entrare un cazzo viene babidato, Eddy. Non vi credo. Ehi, se non mi avevano fatto entrare perché la prima volta cazzo un dolore alla gamba che non gribende, canto per la giocata a sassi, a piedi. Perché mi volevano far risalire gli scalini, invece io no, guardi, io non ce la faccio che me, c'ho la gamba e mi fa troppo male, giudizio. Sono salito dalla strada normale, cazzo, so che arrivi dalla macchina non mi varia più. Un durore, cazzo, guarda, una volta non mi sono messo a piangere per la vergogna. Lo so cosa vuol dire. Ma dove ti prende? Al femore. No, al polpaccio mi piglia, che ci durori, voci, che non puoi risicigia. Ed è tutto dipende dalla circolazione del sangue. Dice non mi arriva sangue alla gamba. Ecco. Ma questo quello che ci ho io ai figli, alla vita dei figli. Ha visto una pelle. Quando mi è successo che mi si è infettato quel piede, mi si è bloccato un dito non lo muovo più del piede, ce l'ho bloccato sul destro. E io ho un'arteria che mi stanno controllando, ogni 6 mesi devo andare a farmela controllare, questa arteria qua, in pancia, no? E mi devo fare l'ecografia per forza, ogni 6 mesi, a tenerla sotto controllo, capito? Perché la visita ai piedi, alle gambe, il diabetologo me l'ha fatta, quello che c'avevo prima ha fatto una visita, oia, c'aveva questa penna che mi passava, che faceva caldo e freddo, io gli dovevo dire dove mi stava toccando e se era caldo o se era freddo, per sapere della sensibilità delle gambe. Ma io per dire, nei piedi non ne ho più sensibilità. Come? Nei piedi non ne ho più sensibilità. No, io sì, io sento tutto. E l'unico difetto è, deve essere che mi arriva da altre parti, adesso posso camminare un po' di più, ma prima appena puni un bidi, cazzo, che camminava appena un durore della Madonna già, non potevo stare. Ma troppo viene, no? Tipo un grampo mi, forte però, un dolore allucinante. E quindi non fa manco a guidare, quando ti viene guidando, sta male. No, guidando non mi viene, se sforzo la gamba camminando mi viene. Ma come stai? E allora? Se no non mi viene, no. Il sangue che mi sta arrivando per altre vie, non per la via diretta dove deve arrivare. Non sarà quell'arteria famosa quando hai avuto un infarto che ce l'avevi al 50%. No, in panza è l'arteria. È in panza, mi la base in panza era l'ecografia. Per vedere quanti centimetri è questo, quell'altro, ma ha detto cosa pure la diabetologa, infatti c'ho il referto e glielo faccio vedere che non ha cambiato niente dall'ultima volta che me l'avevano fatta. E nel referto me l'ha scritto quella dottoressa. Tu chi c'è la diabetologa? Una femmina è. Ha detto la dottoressa. Basta, vanno me da me. Comunque il diabetologo bravo, Rosai Garei, un uomo è chi viene ruba la sorrosa ed è bravissimo perché ce l'ha quell'uomo di Porto Torres che il figlio è magistrato lì alla Corte d'Appello, che era ricoverato con me, e c'ha questo diabetologo che è bravissimo, io stavo tentando di farmi dare a lui infatti. Ma anche questa è bravissima, questa diabetologa che ho io. Erano in due l'altro giorno, l'altra volta visitandomi. C'era quella, la diabetologa normale, più un'altra dottoressa. Ma no, fa la parola. Eia. Ah, quindi non è... Perché dove vado io c'è il diabetico proprio. Cazzo, ma si acciappano chi si rifiuciai. Vai da un altro diabetologo, cazzo. Ma tu ti sta vedendo, ti vede... E allora a me adesso devo andare a novembre, mi sembra, già ce l'ho scritto quando devo andare. Ogni 6 mesi, vai forza, mi devi pedire. prima ogni 4 mi sembra, ogni 4 è che ti deve vedere lì, per forza, e si scrive tutto nel computer. Lo so, anche mio fa così, si fa fare visite, visita turistica, cardiologica, si fa fare la visita per le arterie, tutte queste cose qua. E pure a me, mi faceva l'esame di sangue, l'esame di urine, ogni volta che vado devo portare tutti i referti, no? Però io ce l'ho più bassa che alta, se non mangio, come se non mangio un bè, cazzo, mi si abbassa il sagazzo di una cosa di 90 non l'aggio. Adesso ce l'ho sempre bassa. Ma non basta, ci mettere la data, ma io non basta. A me mi sale un mi sale a 220, 230. Guarda, massimo di massa a me proprio quando faccio gli strabiti 160, 166, ma dice che è normale che salga così se fai gli strabiti. Però a stare a 200, 300 vuol dire cazzo non è andare la situazione. A me è contentissima la diabetologa perché ce l'ho sempre sotto controllo. Dove sei andato a fare la domanda per il diabetologo? Mi hanno mandato loro, poi cazzo al centro dove stai andando tu, non ne piglia né beauty a nessuno, non piglia. Dall'ospedale mi hanno mandato che ero diabetico e tutto. Infatti il primo diabetologo che se n'è andato, quello lì, da dove è, dal Palazzo Rosa, l'hanno sostituito con questa dottoressa, capito? Addirittura il piano terapeutico si rinnova da solo, gatto, io vado in farmacia e mi pigliano materiale, non c'è bisogno, se mi rompono le balle in farmacia telefono e loro lo rinnovano automaticamente. Sì, anche come sono così io. Materiale ogni inizio di mese lo prendo. Sì, anche io, capito. Gli do la carta sanitaria, mia moglie mi piglia tutto. Sì, deve avere però il foglio, come si chiama, il piano terapeutico. Da, a me non mi date niente in mano, vado in farmacia e mi miglio così, tutto automatico, dice Budizè. Che cazzo piano terapeutico, che a me non mi dà nulla in mano. Io gli do la carta sanitaria e basta. Deve essere che hanno inserito tutto lì, loro. Come gli do la carta sanitaria, gli danno tutto il materiale a mia moglie. E non gli do nessun piano terapeutico alla farmacia. Adesso anche a me stanno facendo così, l'hanno fatto tutto tramite computer per la storia del coronavirus, perché prima mi facevano il piano terapeutico, lo rinnovano ogni anno. Ah, va, dici, adesso per un po' di tempo si rinnova da solo, ma dici, se ci sono problemi telefoni qua, io telefono all'infermiera e l'infermiera ma te se cazzo mi va a rinnovare Gosu, Rubiano. La farmacia deve essere, riceve l'ok e mi danno la roba. È vero. E vai tu, uomane, non parli adesso, bello bello, io ti telefono alle 2 di notte, mi già lo sai, non parla già. Chi è Amato? Luca mi sembra. E anche a me, perché ha detto davvero. Ma Luca fa per loro, e allora è quell'altro cuocuomane. Luca Flipper. E uno dei due, a me per fare due pure a me, Luca Flipper. Se prima passando va la via Baldella, c'è quella di via Baldella. Poi scendendo c'è quella di via Pascoli. Se non c'è quella lì vado là. E fai così già, che già te lo fanno. Cazzo non ne batta a me, a chi mi vedo baciare di raddoglia bacio. Ma magari voi siete clienti, capito? Magari te l'ha fatto per questo. Lo fanno a tutti. Se mi ha prenotato pure il vaccino quando dovevo fare il vaccino, sempre lì, perché mia moglie va lì a comprare la roba e l'ha fatto tutto. lui quando ha saputo che lo facevano in farmacia questo Green Pass, è andata e l'ha fatto a me e a lì, l'ha giocato ragazza sanitaria e io, via. Sta fatto bene, perché come serve? Ah, portati il coso del vaccino, sai che lo vogliano, mica mi ha detto, gli ha dato pure il foglio del vaccino, come che sei vaccinato. Sì, ce l'ho già nel borsello, io sono sempre appresso quel coglione di timone, questo parrocchio non ce l'ho, capito? Io ce l'ho, c'è tutto quanto, nel borsellino c'ho la carta sanitaria. Ok. Gli ha fatto anche la fotocopia a mia moglie, in modo che uno ce l'ha sempre qua, e uno ce l'ha nel borsello, sai che glielo chieda. E va la fotocopia. Ci precisa. Se vuoi basta in oga da voi e ti la stampo pure a te, una fotocopia c'è uguale. E vabbè, se me la fanno in via Valletta non sta a venire lì, ho capito, adesso chiedo, via Valletta se me lo fanno. E niente, adesso vediamo un po' là. Dai, vado che così me lo faccio fare. E mi tolgo questo pensiero perché sennò da voi ti la via di tutta, e da voi non hai gari, andai cose. Invece sono fatto perché me l'ha detto, vado subito, se me lo faccio fare. E infatti vai, che ti conviene, vedrai che già ce lo stampano. Se non ce lo dovessero stampare lì, vai dove ti ho detto io. Che sono sicuro che lo stampano, perché l'hanno stampato a me. Va bene, facciamo così, andare, se tutto male che vuole faccio una passeggiata, andare, grazie per avermi detto, perché non lo so, cioè, non lo sapevo, non lo so dire anch'io, però ho chiesto la farmacia e mi sono detto, non le facciamo perché se non le arrivarle a lì, a casa. Ah, vai, che non le fanno arrivare in casa, che su, vai e fatti qua. Vedrà che ce l'hai. Ciucucciù. E chi è Ciucucciù? Chi è? Ciucucciù ha detto. Avanti, ti faccio Ciucucciù. Ciucucciù. Hola. Vabbè, grazie, ci siamo. Grazie, ciao. Ciao, già sono qua. E beh, Ciucucciù. Ciucucciù. Mi, questo è quel pompugno. E allora? Quello mi pigliolo. Sì, quello, cosa so. Non è che mi ci concentro io. Il pipiriolo si chiama quello. Sì, ce l'ho anche nel 2009 si fa questo. Il pipiriolo. Signor, ma tu cosa fai che mi hai detto davvero? No, lo sai che ce l'ho già 24 tu io, quindi non posso essere stato io. Ma mi sembrava che era Luca Flipper quello che fa, neanche Luca del nome, perché mi ha fatto a me, no? Però con la voce contraffatta, no? Beh, magari uno di credo dove sono, lo dico più o meno tutti, Pompeo, dove sarete? Oh signor, cazzo, non sta entrando più nessuno qua la sera. Vuol dire che si stanno vaccinando. Anch'io a fondo scala a loro, per questo. Quindi figurati. già mi sento, già mi sento la buria. Mi sento anche bene. Tutti, non me ne manca uno. Dalla parte di sopra alla parte di dentro. Sì, anch'io li sento. E anche tu ce li hai vicino, non è che ce li hai distanti, no? La promocava dalla testa, la siano 500 metri linea d'aria. Sì, io li sto ricevendo con quell'antenna di macchina, li sto ricevendo. Ce l'ho fuori dalla finestra. E gli dicevo quel ricevitorino che c'ho io da base. Sai, allora che va bene. Ha voglia. Ci possiamo quelli, aspetta. Merda, quel figlio di macumurale è un cancro di merda, come ce l'ho qui all'ospedale, evidentemente è successo qualche cosa, gli erano tutti portati senz'altro, perché come dice di tutti i giorni. Avevo fatto tutti fuori e avevo due riportati qua da casa. fare, uno l'avevo regalato, l'altro l'avevo venduto. Era 27, non servo, c'era, non me ne fai nulla. Capito? Oh signora, io ho 4 portatili e 1 veicolare. Sì, veicolare c'era anche io. Quello cinese c'ho io, il veicolare. I portatili invece c'ho io, sono i Pacific. E poi i KT2 della Intex, sono KT2 250 EE, sono solo 140-150 mi fa quella lì, sono vada gli animatori fanno, non fa nient'altro. Sì, già lo so, io ne sto parlando con Paolo, ne aggiungo 4, c'ho quelli con 3.8, ne ho 2 di qui, nuovi, mai usati, sono in scatola, cazzo, e più c'ho quegli altri 2, più il veicolare, figurati. Sì, ma servono sempre meglio 8, lo sai, sì. Uno te lo lasciare a casa, l'altro se lo può portare tua moglie appresso per dire e parli tranquillamente senza usare il telefono. Capito? Io me li portavo appresso, quando scendevo a centro studio, gli attori così. Quando vado per dire fammi la spesa posso restare col telefono a rompermi le balle, perché o prendo il telefono in mano o prendo la busta, due sono le cose, allora prendo le, il Bofeng e mi metto le cuffiette, metto il box e così parlo tranquillamente con Simona a mani libere. E a giocare io, ce l'ho la cuffietta anch'io. Sto telefonando mia moglie in farmacia. E già l'ho sentita, l'abbiamo sentita. Si sente, ma come già si è sentita? Sei in cucina. Già lo credo, cazzo, chi si microfoni, più lontano sei più piglia. Cazzo, fatti bene quei microfoni. C'è qualcosa, quello famoso, l'ho comprato tutto preciso. I 40 canali omologato, se non gli metti il microfono e metto al 100 o il DM1000 si è fregato. Ehi, aspetta, oh signore, cazzo, è casino. Adesso a Gianni non gli hanno fatto il Green Pass, non gli hanno fatto. Tu vai in farmacia e te lo stampano lì, gli ho detto. Cazzo, a me me l'hanno fatto. Ah, me l'ha fatto il medico di base. Ha fatto il primo di Green Pass e il secondo, perché me l'ha fatto quello per la prima dose e quello per la seconda. Hai capito? C'ho il foglio, nel portafoglio, quello bianco e basta. Non ho inserito dati nel telefonino, non mi fido. Capito? Potrebbe pensare chiunque, prendersi i dati lì, capito? E farsi, e fare casini, quindi non mi sono fidato. Qua non mi dovessero, se dovessero metterlo obbligatorio per entrare in qualche cosa, io ho preso quello che accatta e basta. Questo è il mio Green Pass. Con il codice e roba del genere, se avanti se lo scarichi e te lo guardi, perché tanti nel telefonino non le metto, un bel gente, capito, sta facendo i profili falsi eccetera eccetera, quindi su internet non conviene scaricare i dati. Sì, infatti io ho quello di casa lo stesso. Me l'hanno stampato in farmacia, qua. No, io no. Mi avevo scaricato Immuni, poi tutto l'altro, prima c'era scritto che in pratica i dati non ne volevano sapere, capito? Che non c'era nessun problema, e adesso voglio nome, cognome, codice fiscale, codice ovviamente postale, capito? Tutto, aiuto, no. Non le metto sta dati miei nel telefonino, non esiste. Chiunque può entrare, che magari azzecca la password, entra a posto mio e succede il casino, succede. La biglia rinchiusa, la biglia rinchiusa. Infatti, hai fatto bene. Ma io ce l'ho, me l'ha fatto la farmacia e c'ho quello nel borsello. Se me lo chiedono gli faccio vedere quello. Cioè, e quello lì mi hanno lasciato quando ho fatto la vaccinazione, che ci sono tutti e due i vaccini, e più c'ho il Green Pass. No, io c'ho solo quei due foglietti, che mi hanno fatto tutti e due i vaccini. Mentre il medico dice, tieni questo, che su questo è il Green Pass, mi ha detto, un foglietto bianco. Quindi quello mi sono tenuto e quello uso, se me lo dovessero chiedere, ma sai qui c'è, adesso vediamo, fa proprio in zona gialla qui, poi la zona gialla verrà in zona arancione e poi mi vuole zona rossa, che è buonanotte, è tutto quello che è stato fatto in tre mesi, che buttiamo la mombetta. Ma ti pare che io per entrare al bar a bere una cosa devo presentargli il foglietto, non saranno. Ma non ti fanno entrare, non al bar, però al ristorante se non c'è quello non ti fanno entrare. Sì, al ristorante io ce devo andare, ma per pizzeria se la può pigliare in culo, pizzeria e ristorante, capite? Se vado in qualche bar a rinfrescarmi, bevo una birra, una lanciata, quello che è, siamo nel bar, sono al circolo, se dovessi trovare qualche circolo aperto, poi bisogna vedere, capito? Sta diventando un bel casino, sta qui, sta diventando, manco quest'anno ne vado, quest'anno siamo come l'anno prossimo, c'era l'anno scorso. Quindi ci sono le varianti, adesso c'è questa variante qui, poi il prossimo anno c'è un'altra variante, poi la variante del coso, poi posso arriverà quella della malattia dei pulli, così ma non mangiamo manco quelli, andiamo a mangiare scarafaggi e cose del genere, questa è l'unica, andiamo in campagna a cercare lumache, mangiamo lumache. Ti sei mandato di verde. Cazzo, tra un po' ti abbassiamo i pantaloni e ce la facciamo mettere. Sì, è così. Stiamo andando proprio male stiamo andando. Ma sta l'imbecille che non si è vaccinato, e ti sei fottuto la vita, ti sei fottuto. Tutta la vita lavorando, eccetera, ma in due minuti sta, una volta che ti ha fatto soccorso non esci più, il discorso è quello. Perché se lei ne esce tutto guasto, peggio di prima, poi questa malattia non viene neanche riconosciuta ancora come valerante, quindi a un certo punto ti rimangono i sintomi e questi con quelli. Oh yeah. No, che i ragazzi non comprendi che si deve vaccinare, non esciamo vincitori. Facciamo la fine dell'anno scorso, mi vedrai. Io c'è un bel di gente che non si è venuta a vaccinare. Ne conosco tanti, io settantenni o tantenni, che il mio vaccino non me ne frega niente. Ma cosa che ti dico? Vaccinati, se vuoi vaccinare, tanto se crepi adesso. Io meglio crepo dopo, dice. Mai sono arrivato a 75 anni, che se ne frega, dice. Campare 5 anni in più, 5 in meno, non succede nulla. Vabbè, non credo già pure che si fa il sud, almeno quella che il supermercato me lo faranno a coso, a cimitero e gli vaccinerà. Andiamo bene, andiamo. Ma proprio bene. Mi lo dice, è rinato. Andiamo bene, andiamo. Immagina a Natale che quelli che devono andare a fare il ciucucciù non lo possono fare, in crisi entrano, in cui sale la busta della mondezza, le tesoro, quelle grandi, gli fai il buco e ti apposta. Non mi c'è il rischio di tagliare la picchiriola. Quello tocca la pedata da pisciare, figurati, ti devi metterci i guanti. Infatti. Che si dice? Che sei mandati invece, manco da bicchiniola mi posso toccare. Allora, guarda che i vigili urbani non ci vanno più a scoccare i poliziotti, i carabinieri. E la vanno a scoccare in periodo, capito? Una scusa di fatti fare un controllo. O me la dai, o se no vieni come capito in questura di pazzia. Adesso non glielo dico più una cosa del genere, perché dice piedi che te la rovini, che così avendo tutti i virus e creepy. Fanno. Lo fa, e gli fanno schiacciare, li fanno, li imparano a fare, alla scocco. E quindi andavano a vedere a croppo, da buffumenti. Sì, quando pensavi cosa vedete Emanuele, andavano tutti a scocco, andavano i vigili urbani, carabinieri, polizia, tutti salivano. Sì, quando abbiamo messo la telecamera, già stavano freschi che salivano più. Appena salivano, non li apriva. Luca, non risponde. Stava facendo lumache, senz'altro. Tanto se non risponde se lui secca la picchiriola. Allora, bisogna usare la busta della mondezza adesso. Non basta più preservativo, c'è una busta della mondezza. Quelle nere. Perché quelle, se usi le altre buste, quelle che tira la terza urbana, si bucano come così, le buste di Ospì. Quelle per condominio ci voglia. Sì. Tanto non è mai vista quella busta di Rossi. Una cosa avvicinante, se quando ci metti la pizza, mi quella rettangolare, immediatamente si apre in due. Devi stare attenta a come ci metti la roba. L'unica cosa ci vogliamo quelle buste grandi, capito? Quella da 1 euro, 2 euro. Io ho quasi una quindicina ne ho di quelle. Ho intanto me le dimenticavo e mi erano quelle buste che facevo. Oh, anche giocata lo stesso. È una scena, io pure ho quelle buste resistenti. Se no, era bene buona, questa roba pesante, si buona. Sì, ma meno tu te la fai in macchina. L'unica cosa che fai sono le scale di casa tua e dove parcheggi la macchina. Ma io devo farmi dello sfì fin sei nuovi appiedimi. Immaginati due buste piene, quando arrivo alle qua sopra sono un fiatone. Sono in cerca di comprarmi quella specie di motoretta che stanno pubblicizzando adesso, quella che c'ha l'impianto stereo dentro. L'unico problema è se passi via Milano che ti busta a te e anche la moto. E perché? Sì. Perché non sei via Milano lì, c'è una secondo che il vento c'è, ti muove anche la macchina, ti muove, non sono dato. Figurati una motoretta del genere che va a 30-40 km all'ora nemmeno. Ma com'è questa motoretta? Guarda che stanno pubblicizzando a Videolina, a TCS, anche a Rete 4 l'ho vista. E c'ha tre ruote, e c'ha il coso davanti, in modo che non prendi la pioggia. Insomma, perché nei laterali non c'è nulla, non c'è... E ti metti un giubbotto per forza se non ti bagni tutto. Ma non penso di gelo fa. Tu immaginati se dovessi passare via Milano. Io adesso qualcosa col Simmi, quando usavo il sì. C'è il giorno di che c'è la maestrale, non sai dove ti sbatteva. Da una parte all'altra, dovevi stare molto attento come camminavi. Quando c'è il vento. Via Milano è una cosa avvicinante, sono vicino a te dove c'è il ponte del Rosello. Oppure il ponte nuovo. Non ti pigli una di quelle moto 50, di quegli scooter, che così puoi appoggiare le buste e tutto. Non ti conviene una di quelle, Antonio. Io si buco di rame a un pareggio. A chi una macchina è diventata impossibile, no? Sì, ci sono quelle moto, capito? Ce ne sono parecchi in giro. Solo che ce la se la tiene in garage, perché non conviene più, capito? Ci vuole 500 euro di assicurazione, ce la fai, non ne vale male con la moto. A cosa 500 euro? Che io vado all'assicurazione della macchina mia e a me la assicurano per pochi soldi a me. Che poi anche se ci vogliono quei soldi, mi conviene sempre, perché qua come se me la tolgo la macchina, è un casino e non c'è più mai parcheggio in Ovid. Qui è un macello. Non so, ma il problema è che se ti compri uno scooter devi mettercelo per forza nel tappottone. E non penso che gli altri condomini siano d'accordo. Quello è il problema. Magari passa qualche imbecille a casa di notte, sa che c'è la moto, una moto di avvento, ti apre il portone, capito? E te la porta via e penso i soldi anche l'assicurazione, non solo l'altro. Quindi no, non conviene più, conviene che mi quelle moto che stanno prendendo adesso, non c'è casco, non c'è assicurazione, non c'è patente. Ma che cazzo, io la metto fuori, di buon qui da cadena blindata che non la dagli manco con raggiunchese, perché io ce l'avevo e la lasciavo fuori la moto, un cazzo gli hanno mai fatto, me l'ho venduta, le mani mi dovevo tagliare prima di vendermela. Mi puniva le cose, le casse dell'acqua, tutto ci stava. C'avevo il bagaglietto per mettevo il casco, cazzo pure in chi mi si puniva la butta della cosa, mi quasi una spesa con questa moto, figurati, una Flivia era di quelle ruote grandi, e poi mi io non trovo la notte, da illuminare che muso che intendo, un cazzo, ya, Lugani si sacrifica qualcuno a entrare, nero piccolo si buona baggiare, mi dice da Duruccio con l'umido. Se vogliono già se la portano via, basta che entri in moto carrozzello, che in due o in tre mi caricavo la moto, anche con la catena, e tu dici ciabo la notte, come l'ho fatto con lo scooter che c'avevo io una volta, quello pesava a me, figurati, il Gulliver, quello pesava un bel, era il doppio del bazooka. Siamo caricati in moto carrozzella, con la catena e tutto, nessuno aveva visto niente lì al bar, capito? E vai, come si cercano di entrare con la moto a carrozzella, rientendo, gatto, ed esce da Vaconi io subito. E cosa vuoi? Cosa posso dire? Ti vuoi vedere fuggendi? Se no li blocco in chi me ne posso arricciare. Se ti muovi ti sparo. E facciamo subito la questura e li posso arricciare. Lui alla picchiriola dice, se vuoi usarla, cerca di stare fermo, se no te la taglio. E se no dico, adesso mi fa un pompino, se no... se no tiro il grilletto. Allora, cosa bisogna fare? Cosa ride? No, comunque non l'ho più visto la verità, macchine, moto di 50 non l'ho più visto in giro. Adesso in periodo stavano rubando roba che non facevano prima i 125, evidentemente qualcuno magari si è valutizzi, cose del genere. Su commissione. Questo è il periodo. Tanto 50 anni non ce ne sono più, me. Non ho più visto neanche io in giro, mi fa, ce l'ha, non metto bene i capelli, il 50, la verità, l'ho visto solo in mano a lui. Poi tutti gli altri non l'ho più visto, ho visto tutti i 125, i 200.